scomparsa, forse finalmente lei sparirà, ed io impazzirò, ma quando se ne andrà io non la cercherò. Ultimo atto disteso al suolo, scacco matto a chi muore solo, e fango e cemento triste lucernario, l'ultimo momento per un mercenario. Appunti sparsi nella mia mente, appunti sparsi tra le pagine, appunti sparsi nella mia mente, appunti sparsi. Veloce, e poi pensieri corrosi da una noia precoce. Il circo della città spalanca i battenti ad una tossica moralità dai troppi pretendenti. So che ti sveglierai un giorno lontano, nel silenzio ricorderai il calore della mia mano. Partire nel gelido della notte vuota, verso un lido o destinazione ignota. Appunti sparsi nella mia mente, appunti sparsi tra le pagine, appunti sparsi nella mia mente, appunti sparsi. Ma come son malati di pubblicità, a tutti i mondani vengono felicità, ma come siamo malati in questa società.